Nessun luogo è lontano. Di Giampaolo Musumeci. Una buona serata, gentili ascoltatori, ben ritrovati a Nessun Luogo è Lontano. I saluti vi vengono anche da Benedetta Acri e Laura Fagin, che hanno curato con me questa puntata, Filippo Reggi, che gli darà musica e ritmo. Naturalmente anche i temi di questa puntata sono commentabili, potete interagire con noi, la mail è nessunluogo@radio24.it, la pagina Facebook è nessunluogolontano-radio24, potete twittare a nessunluogo24 e infine gli sms, se siete sintetici, al 349-238-6666. Questa sera, gentili ascoltatori, immaginate una regione grande quanto gli Stati Uniti e l'Europa insieme, più assolata della California, più arida dell'Arabia, più deserta del Sahara, più alta delle montagne della Svizzera. Soltanto un posto al mondo corrisponde a questa descrizione, l'Antartide, il meraviglioso continente all'estremità della Terra. Così scriveva Joseph Dackert, This is Antarctica, un libro pubblicato negli anni 60. Questa sera Nessun Luogo è Lontano, andremo molto, molto a sud per cercare di capire non soltanto questo continente, quali motivi di interesse racchiude, non solo dal punto di vista geologico, come di scientifico, e non è la missione di Nessun Luogo è Lontano, ma soprattutto dal punto di vista geopolitico e strategico. Per fare questo ci aiuterà innanzitutto un professore di geologia a cui do il mio buonasera, il mio benvenuto a Nessun Luogo Lontano, professor Francesco Salvini, buonasera. Buonasera. Professor Salvini insegna geologia strutturale all'Università di Roma 3 e grazie a lei cercheremo di capire meglio che cosa si nasconde sotto i chilometri e chilometri di ghiaccio di questo continente, per poi, ripeto, passare alle implicazioni e a quali stati, come dire, stanno allungando le mani su questo incredibile luogo sulla Terra. La prima domanda, professore, le prego massima sintesi fin da ora, perché il continente è enorme e le domande sono tante, è quanto è ricca l'Antartide e di che cosa? Guardi, immagini un continente delle cui dimensioni ha anticipato, più grande dell'Europa, che non sia mai stato esplorato dall'uomo, quindi con tutte le risorse, le materie prime ancora da utilizzare, da prendere al di sotto ovviamente di questa calotta di ghiaccio, quindi sicuramente al di là delle scoperte attuali è un continente estremamente ricco come materia. Attualmente sono stati identificati carbone, ferro, nickel, petrolio. I motivi di interesse sono tanti, allora vi faccio ascoltare la nostra fotografia del continente antartico. Con una superficie complessiva di circa 14 milioni di chilometri quadrati, l'Antartide è il quarto continente in ordine di grandezza, il doppio degli Stati Uniti. È la regione più meridionale della Terra, è la più grande area del mondo con una calotta di ghiaccio permanente. Il 98% del suo territorio è completamente coperto dai ghiacci, con uno spessore medio di 1600 metri. I ghiacciai coperti di nevi si estendono fino alla costa, che è circondata da ampie zone di pack e di ghiaccio alla deriva. L'Antartide risulta essere in media il luogo più freddo della Terra e con le maggiori riserve di acqua dolce del pianeta. Nonostante questo, è considerata un deserto, con precipitazioni annue di soli 200 mm lungo la costa e molto meno nelle regioni interne. L'Antartide, assieme ai suoi ghiacci, ha un importante compito nell'equilibrio climatico-ambientale dell'intero pianeta. Ogni variazione della calotta si ripercuote sull'equilibrio termico mondiale, sulla circolazione oceanica e atmosferica, nonché sul livello dei mari. Il continente non è abitato permanentemente da alcuna popolazione umana. Nonostante ciò, si contano durante l'anno tra le 1000 e le 5000 persone che risiedono nelle varie stazioni di ricerca scientifica sparse in tutta l'Antartide. Nel continente vivono solo piante e animali che si sono adattati al clima rigido, tra cui pinguini, foche, muschi, licheni e molti tipi di alghe. Dal 1959 lo status politico dell'Antartide è regolato dal Trattato Antartico, firmato ad oggi da 46 paesi. Il trattato vieta le attività militari e minerarie, sostiene la ricerca scientifica e protegge le ecozone del continente. Sono in corso esperimenti condotti da più di 4.000 scienziati di varie nazionalità e con diversi interessi di ricerca. Oggi sono 7 le nazioni che hanno rivendicato 8 territori antartici: Argentina, Australia, Cile, Francia, Nuova Zelanda, Norvegia e Regno Unito. L'Antartide, gentili ascoltatori, non è solamente regno esclusivo di scienziati, fotografi, non è un luogo conosciuto solo da chi ha avuto la fortuna di vedere magari un documentario del National Geographic. L'Antartide ha importanti e tante implicazioni per l'equilibrio geopolitico dell'intero globo, già del prossimo futuro. È un po' questo quello che cercheremo di comprendere questa sera. Ma intanto, con il professor Francesco Salvini, che insegna geologia strutturale all'Università di Roma 3, cerchiamo di sondare questi metri, questi chilometri e chilometri di ghiaccio. Professore, che cosa si può capire dell'Antartide studiando? L'abbiamo sentito, dai 1.000 ai 5.000 scienziati ogni anno sono lì, no? Sì. Che tentano di comprendere. Sono lì a caccia di che cosa? C'è una forte componente a caccia delle condizioni di vita, della biologia di questo continente in condizioni climatiche così uniche. Poi c'è un settore che si occupa di astrofisica, in quanto proprio il clima arido consente una spettacolare visione del cielo che dura 6 mesi l'anno per le osservazioni notturne. Poi c'è il settore geologico che, attraverso anche dei metodi indiretti, anche al di sotto del ghiaccio, esplora sia la parte ghiacciata, i ghiacciologi, che la parte, diciamo, di rocce che sono sepolte sotto e che affiorano localmente in alcune montagne alte che più di 4.000 metri. È un continente ricco, lei accennava prima a quali materie prime ci sono, ma è, secondo lei è possibile quantificare la ricchezza potenziale, dobbiamo parlare evidentemente in questi termini, perché sa, quando c'è un luogo come dire su cui alcune delle potenze mondiali no, accampano diritti, altre no, dove c'è un trattato che prevede la non militarizzazione, beh, insomma, siamo di fronte evidentemente a un unicum, non solo dal punto di vista geologico ma anche dal punto di vista del diritto internazionale. E allora la domanda che sorge spontanea è questa: quali ricchezze si nascondono? È possibile, secondo lei, quantificarle? Qualche indicazione ce l'abbiamo già, sì, noi facciamo parte di un progetto Antartide gestito dal nostro Ministero della Ricerca Scientifica, che è coordinato scientificamente dal CNR, che coordina anche le attività nell'Artico, e logisticamente è appoggiato e curato dall'ENEA. Nell'ambito di queste ricerche nostre, come degli altri paesi, sono già emerse per esempio delle ipotesi abbastanza fondate di una grossa ricchezza nel mare di Ross, proprio dove lavorano le equipe italiane. Si stima intorno a un potenziale 50 miliardi di barili di petrolio l'anno. Lei consideri che ne consumiamo 10 miliardi l'anno, sì, nel mondo. Gli australiani hanno scoperto degli giacimenti di carbone che sono tra i più importanti del mondo, e qualche anno fa, prima della ratificazione del protocollo di Madrid, avevano pianificato la loro utilizzazione. Poi ci sono grossi giacimenti di ferro e di nickel, sì. E deve considerare che l'Antartide fino a 200 milioni di anni fa era attaccato al Sudafrica, all'Australia, al Sud America, paesi, sì, che sono notoriamente ricchi di materie prime, quindi per continuità geologica c'è da aspettarsi che le stesse ricchezze siano presenti anche in questo continente. Quindi non solo ghiaccio in Antartide, non solo la più grande riserva d'acqua dolce del mondo, se non erro, ma mi corregga in questo senso, professore. Assolutamente sì. Potrebbe essere abitabile, secondo lei, un giorno? Abitabile intendiamo in senso continuativo e come dire, in condizioni, gli scienziati che vi lavorano, insomma, sopportano, no, delle rigidità. E secondo lei è possibile che un domani questo vastissimo territorio sia abitato intensivamente? Guardi, è possibile lungo le coste, specialmente dal settore del Cile e dell'Argentina. Il clima non è così rigido, in ogni caso oggi ci sono delle attrezzature logistiche che consentono di sopravvivere. Diciamo che il motivo per cui non è popolato oggi è la non convenienza del fatto, ma potrebbe assolutamente essere popolato. Allora, gentili ascoltatori, un territorio gigantesco, potenzialmente abitabile, ricchissimo, avete sentito anche i numeri. Da ciò, insomma, viene semplicemente da aggiungere a chi interessa e perché, ma lì ci arriviamo. Professore, le faccio smettere, se vuole, per un attimo i panni del geologo in questo senso. Secondo lei si potrebbe aprire una crisi politica per questi materiali, per queste ricchezze a cui lei faceva cenno? Diciamo che si aprirà nel futuro, ma non è nella, diciamo, nella prospettiva più rapida, nel senso che le necessità logistiche, le difficoltà logistiche della, diciamo, dell'esplorazione, dell'estrazione delle risorse sono tali da non rendere oggi, con le tecnologie attuali, conveniente uno sfruttamento dell'Antartide. In questo senso non è il target primario, l'Artico come pure l'Africa mi sembra che abbiano la precedenza in questo momento, quindi ecco, togliendo i panni del geologo posso aspettarmi che in un futuro ci sarà una caccia alle risorse dell'Antartide, ma non nel futuro immediato. E allora, per comprendere meglio come lavorano gli scienziati in quelle condizioni, tentiamo un collegamento e cerchiamo di andare nella stazione di ricerca Concordia, aperta nel 2005, una joint venture italo-francese, scusate, e si trova a 3233 metri sopra il livello del mare. Il luogo si chiama Dome Sea, appunto sul plateau antartico. Per darvi un'idea, andate su Google Maps, non è facilissimo, ma siamo a 1100 km all'interno dalla stazione di ricerca francese Dumont-d'Urville, siamo a 1200 km da quella italiana, la stazione Zucchelli a Terra Nova Bay, e il polo sud geografico è a 1670 km di distanza. Sono Elio Padoan, sono il ricercatore che si occupa delle tutte le ricerche in chimica dell'atmosfera e glaciologia italiano. Io sono Bruno Epifania, sono il responsabile dell'informatica e delle telecomunicazioni della base. Sono Antonio Litterio, ingegnere elettronico, e qui sono l'elettronico della scienza. Ecco, permettetemi di indagare un po', diciamo, esulando dall'aspetto scientifico, un po' che cosa significa vivere e lavorare nelle condizioni in cui voi siete. Che temperature ci sono, che condizioni ci sono? Attualmente fa caldo, diciamo, perché siamo sotto l'effetto di un warming event. Praticamente dell'aria più calda arriva dall'oceano e adesso le temperature sono all'intorno di meno 53. Però diciamo che la media stagionale dovrebbe essere meno 65, meno 70. Quindi oggi fa caldo qui a Concordia. Voi uscite al di fuori della base, immagino. Quando uscite, come dovete abbigliarvi per resistere a meno 60, meno 70 gradi? Ma ci si veste un po' come si va a sciare, semplicemente con vestiti più pesanti. Passamontagna, un cappello, giacca e pantaloni, le calze maglie varie, due o tre maglie termiche sotto la giacca, degli scarponi giganteschi e via. Diciamo che l'abbigliamento è simile a quello che si usa per andare in montagna, semplicemente due o tre volte più spesso. Che sensazioni si hanno nel lavorare in un ambiente come questo? Lo percepite come ostile o, come dire, c'è una pacifica convivenza con questo gelo e con questo deserto totale? Beh, normalmente c'è una pacifica convivenza, a parte alcuni giorni in cui c'è il vento forte, la nebbia scende e non si vede più molto. Per quasi tutti i giorni si sta tranquilli, anche perché siamo assolutamente in sicurezza. Abbiamo sempre la radio dietro, con contatti radio ogni più o meno un quarto d'ora con la sala radio. Abbiamo luci e tutto, visto che adesso fa buio. Quindi diciamo che, se a parte alcuni casi eccezionali, è abbastanza rutinario oramai anche l'uscire. Non è che è ostile o... Basta abituarsi. Se arriva qua d'estate quando fa caldo, che c'è meno 20, meno 30, poi le temperature gradualmente scendono, quindi uno si abitua. Diciamo che questo ambiente, così, no, come anche hai chiamato te, ostile, poi ci offre però delle cose incredibili, no? Come ad esempio adesso siamo immersi nella notte antartica, abbiamo giusto un po' di luce durante mezzogiorno e poi tutto il giorno completamente buio, ma soprattutto quando vai fuori con il plenilunio che c'è adesso e riesci a camminare con la luce spenta, no? Con la lampada spenta, ed è incredibile quella luce che dà la luna, che illumina tutto. Siamo stati fortunatissimi, abbiamo visto delle bellissime aurore australi che sono eccezionali, quindi Ci regala molto anche questo ambiente ostile. Oltre al fatto che la comunicazione non sia buona, qual è la grande paura che avete? Se esiste un grande timore, diciamo. Sicuramente quest'estate abbiamo vissuto un momento un po' critico con la scomparsa di un aereo il cui pilota doveva venire qui a Concordia per portare via del personale. Quindi non è che abbiamo paura, però siamo consapevoli che l'Antartide è l'ultimo avamposto, Concordia è uno degli ultimi avamposti umani sulla faccia della Terra. Grazie allora alla Concordia, buona continuazione e buon lavoro. Grazie, anche a voi a voi. in Italia. Queste sono le condizioni di vita degli scienziati che affrontano il freddo e il deserto del continente antartico. Ancora con il professor Salvini di Roma 3. Professore, ultima domanda. Se dovessimo sintetizzare qual è la grande sfida per uno scienziato che affronta questo continente, la grande sfida attuale o magari per il futuro? Sì, chiaramente nel settore geologico abbiamo una grossa novità. Quest'Antartide sembrava un continente morto, che non si muoveva più da sui famosi 180 milioni di anni. Abbiamo scoperto che in realtà, dal punto di vista geologico, è pieno di attività, di movimenti, vulcani, terremoti, faglie che si muovono, e il suo collegamento con il resto della tettonica delle placche non è chiaro, perché è circondato da margini che si allontanano dall'Antartide e da quasi tutti i continenti intorno. Quindi la grande sfida è comprendere e integrare l'Antartide in queste condizioni. L'altra sfida è quella climatica. Noi abbiamo in Antartide una copertura glaciale che sta aumentando di anno in anno. Negli ultimi 20 anni è aumentata di oltre 1 milione di chilometri quadrati. Quindi, contrariamente a quello che succede nell'Artico, i ghiacci dell'Antartide si stanno espandendo, e questo rendono tra l'altro anche difficili le logistiche proprio anche per la base francese Dumont-Durville, ma anche per la base italiana. Certo, questo Quindi, è comprensibilissimo. sì. Grazie allora, professor Salvini, lo ricordo, insegna geologia strutturale all'Università di Roma 3. Buona serata, buon lavoro. Buona serata agli ascoltatori. Arrivederci. Nessun luogo è lontano. Ancora buona serata, gentili ascoltatori, ben ritrovati a Nessun luogo è lontano. Se è vero che il titolo del programma è anche un po' una missione, questa sera vi ho fatto percorrere parecchie migliaia di chilometri. Stiamo tentando di analizzare quelle che sono le implicazioni geopolitiche, geostrategiche di un continente gigantesco, poco noto, poco conosciuto, freddo, desertico, l'Antartide. E in apertura di trasmissione, grazie al professor Salvini, abbiamo compreso quanto ricca è questo continente, fatta salva le, come dire, complicazioni che si avrebbero in un sfruttamento intensivo e massiccio. Adesso apriamo invece un capitolo più prettamente politico, se volete, cioè l'importanza geopolitica di questo gigantesco continente. Ci soccorre in questa analisi Simone Turchetti, ricercatore e docente al Centro di Storia della Scienza, Tecnologia e Medicina dell'Università di Manchester. Dottor Turchetti, buonasera e benvenuto a Nessun luogo è lontano. Buonasera. Dottor Turchetti, prima di proporle insieme l'ascolto di una fotografia, ci si perdonerà il paradosso, di un fotografo del National Geographic, appunto, che racconta la sua esperienza, gli chiederei intanto a chi fa gola l'Antartide. Ma si tenga in considerazione prima di tutto che l'Antartide è fondamentalmente un deserto e quindi è un luogo inospitale e che non potrebbe avere alcun tipo di popolazione. Tuttavia, come altri deserti, uno potrebbe anche proporre il paragone con il deserto del Sahara, ad esempio, è un territorio che fa gola soprattutto in virtù delle sue risorse ambientali e risorse naturali. E quindi da questo punto di vista ovviamente c'è la possibilità di pensarlo come ad un luogo che effettivamente potrebbe suscitare degli interessi. Ecco, scenderemo più avanti nei dettagli, cercheremo di capire quali attori si concentrano in questo glaciale mosaico, glaciale scacchiere, però come le dicevo prima, ascoltiamo la fotografia che ci ha regalato Jacopo Pasotti, che è un fotoreporter, collabora fra gli altri con National Geographic. Qualche anno fa ha partecipato, al viaggio Polo Sud 100 che celebrava il mitico viaggio di Amundsen. A Jacopo innanzitutto abbiamo chiesto quando e dove è stato. Sono stato l'inverno, che poi lì era estate, 2011, a dicembre, e sono stato alla stazione italiana Mario Zuccherelli. Che si trova, per chi non sa nulla del continente, come possiamo localizzare il luogo in cui sei stato? Allora, bisognerebbe pensare di andare a sud dell'Australia e della Nuova Zelanda e da lì tirare ancora più a sud finché si incontra, fino ad incontrare il continente antartico. E lì sulla costa, devo dire abbastanza monotona nelle cartine, nei planisferi che possiamo avere nelle scuole, quindi insomma in un punto della costa c'è la stazione Mario Zuccherelli. La stazione più importante, più nota vicino alla Mario Zuccherelli è McMurdo, che è la base americana, quella una città praticamente, l'unica grossa base che c'è sul continente. Ecco, in che condizioni climatiche hai lavorato? La base è sulla costa e quindi, essendo in piena estate, devo dire, ho avuto diverse giornate di sole. Il tempo cambia in continuazione, come temperature sempre sopra lo zero, quindi insomma accettabili. Una volta però che ci si sposta all'interno, che si risale nel plateau antartico, per cui si sale anche di quota fino a 3.000 e più metri, con sotto 3.000 o più metri di calotta glaciale, lì le temperature crollano e insomma ho lavorato anche fino a meno 20 gradi, direi. Ecco, ti chiederei una missione impossibile che se puoi sintetizzare con una fotografia queste due settimane, se ho capito bene, una settimana di missione, se ti chiedessi un'istantanea di quell'esperienza, di quel viaggio. Tanta luce, perché anche se è stato molto, molto nuvoloso, io mi ricordo il sole, mi ricordo la presenza costante di questo sole basso, un sole che ricorda molto la luce della mattina presto nelle nostre latitudini, quindi con delle belle ombre lunghe, la luce nitida, fresca, pulita, con poca umidità, per cui persa, luce veramente, veramente bella, spettacolare, e ovviamente poi tanto, tanto, tanto, tanto bianco. Tanto bianco, bianco ovunque, bianco a destra, bianco a sinistra, di sopra e di sotto. Le montagne sono ricoperte di neve, il ghiaccio è ricoperto di neve o comunque spesso è bianco anche lui. Il mare, quando io sono arrivato, era ancora chiuso nel pack e quindi anche quello era una distesa bianca fino all'orizzonte ed oltre, insomma non ne vedevo la fine. E qua e là queste montagne che come delle isole, insomma, affiorano dal ghiaccio. Ecco, Jacopo, dopo esserci stato, concordi, leggendo sui manuali si scopre che è il posto più inospitale della Terra? Beh, dipende da che cosa intendi inospitale. Per me è bellissimo, è fantastico, io potessi, io tornerei, ci passerei dei periodi più lunghi. Inospitale nel senso che è difficile viverci per noi esseri umani. Devi sempre metterti al riparo dal freddo, chiaramente, per cui sì, in quel senso è un ospitale, ma io non mi sono mai sentito in un ambiente ostile. Grazie a Jacopo Pasotti. Ricordo che sulla pagina Facebook del nostro programma, andate a controllare, gentili ascoltatori, se avete un computer sotto mano, Nessun luogo è lontano, trovate una delle immagini che Jacopo ha scattato durante il suo viaggio in Antartide. È una foto che in qualche modo, insomma, dà l'idea del panorama visibile da uno degli oblò della base italiana Zuccherelli. Chi volesse invece gustarsi l'intero reportage del viaggio Polo Sud 100 può trovarlo sul sito del National Geographic. E noi andiamo avanti invece con l'analisi dell'importanza geopolitica di questo continente, che è, come dire, il grande assente, se volete, dai racconti dell'attualità internazionale, non solo in Italia, ma vi sono alcuni studiosi che concentrano i loro studi e i loro interessi. Tra questi Simone Turchetti, che insegna al Centro di Storia della Scienza, Tecnologia e Medicina all'Università di Manchester, che ha scritto parecchio su questo continente, in particolare sulle implicazioni, su come si è arrivato al cosiddetto trattato antartico. Dottor Turchetti, ci spieghi meglio, partiamo da questo, diciamo, il capitolo giuridico, come è regolato il continente? Ci racconti questo trattato? Beh, dunque, va innanzitutto sottolineato che il Trattato dell'Antartide fu firmato nel 1959 e entrò in vigore due anni dopo, nel 1961. Si tratta di un trattato che fondamentalmente sospende le rivendicazioni territoriali che riguardano appunto l'Antartide. Va sottolineato che il continente è diviso in spicchi di circonferenza fino praticamente a raggiungere il mare Antartico che circonda l'Antartide. Sì. Da questo punto di vista ci sono sette stati che hanno fatto delle rivendicazioni territoriali, dal 1908 la Gran Bretagna fino al 1942 l'Argentina, e fondamentalmente nel 1959 si giunge praticamente ad una soluzione di quelle che sono anche le controversie territoriali, nel senso che alcuni di questi stati che erano in Antartide tra l'altro avevano rivendicato gli stessi territori, questo era il caso per la Gran Bretagna, l'Argentina e il Cile. Sì. E si arriva praticamente al 1959 quando viene praticamente presa la decisione da tutti gli stati che hanno fatto delle rivendicazioni territoriali su questo territorio di praticamente sospenderle e di mettere in vigore un nuovo regime che consiste poi fondamentalmente nel riconoscere che questi trattati sono sospesi, che praticamente a decidere sulle questioni antartiche sarà una assemblea composta da 12 stati e che fondamentalmente per quello che riguarda l'utilizzazione dell'Antartide verrà proibita qualsiasi uso militare, sì, qualsiasi installazione militare o nucleare, e praticamente si arriverà alla conclusione che l'Antartide verrà dedicata esclusivamente allo scopo dell'esplorazione scientifica. Ecco, questa è la prima primo diciamo connotato estremamente interessante, perché se pensiamo agli anni 60 quando è stato ratificato il trattato, noi eravamo in piena guerra fredda. Assolutamente. I retaggi di quella guerra fredda, o quantomeno alcuni degli strali di quella guerra fredda, si sono travestiti da una gara alla ricerca scientifica in quel caso, dottor Turchetti. Ma in realtà esiste ancora una storia ancora più interessante, nel senso che poi in realtà l'idea di fondo, tutti quanti guardano il Trattato dell'Antartide come un superamento di quelle che sono le tensioni della Guerra Fredda e quindi lo considerano il momento in cui quasi proprio per far prevalere gli interessi scientifici, gli interessi politici e geopolitici del tempo sono stati messi da parte. In realtà se noi andiamo a guardare le carte dell'archivio scopriamo che in realtà l'organizzazione della conferenza di Washington del 1959, che dà vita poi al Trattato dell'Antartide, è anticipata da tutta una serie di negoziati che vedono protagonista poi quello che sarà l'artefice del Trattato dell'Antartide, ovvero Paul C. Daniels, che era al tempo il responsabile del Dipartimento di Stato americano per gli affari antartici, e Daniels fondamentalmente aveva chiesto consiglio a tutta una serie di ambasciatori dell'Inghilterra, dell'Australia e della Nuova Zelanda circa appunto a che cosa si dovesse fare. Il problema principale che sorgeva al tempo era il fatto che dal 1956, proprio in seguito all'organizzazione dell'Anno Geofisico Internazionale, ovvero questa grande missione scientifica che aveva portato praticamente dei gruppi scientifici di tutto il mondo in Antartide proprio per avviare delle esplorazioni, sì, fondamentalmente aveva suscitato delle preoccupazioni, perché nel 1956 la Russia aveva inviato la sua missione scientifica in Antartide e aveva praticamente posizionato una nuova base, sì, la base di Mirny, e questo ovviamente aveva delle implicazioni geopolitiche enormi, certo, nel senso che siamo proprio nel bel mezzo della guerra fredda e c'era il rischio che questa base venisse anche militarizzata o nuclearizzata. Certo. Che cosa Daniels fece? Daniels si rese conto che fondamentalmente gli Stati Uniti potevano ovviamente avanzare delle rivendicazioni territoriali in Antartide proprio per prevenire l'estensione degli interessi sovietici nell'area, ma nel far così sarebbero andati contro gli interessi di paesi alleati. Certo, cioè lei dice, dottore, se capisco bene, in quel momento il Dipartimento di Stato americano disinnescò una potenziale escalation pur fredda dal punto di vista proprio geopolitico, perché alla fine... Assolutamente, c'era poi il secondo problema grosso, che era quello poi fondamentalmente che c'era il rischio che mettendo delle basi militari o nucleari in Antartide l'Unione Sovietica effettivamente divenisse una minaccia molto presente, specialmente per degli alleati americani come la Nuova Zelanda e l'Australia, in quanto se effettivamente dei missili nucleari fossero stati piazzati in Antartide avrebbero potuto raggiungere la Nuova Zelanda e l'Australia. Nessun luogo è lontano. Lo scacchiere geopolitico, forse più lontano, più difficile, più ostile e meno raccontato dalla grande attualità internazionale. Questa sera Nessun Luogo Lontano cerca di radiografare, fotografare, anche se volete scrutare nella sfera di cristallo per capire il futuro dell'Antartide. Abbiamo capito che è un continente ricco, che è un continente teoricamente anche abbastanza ospitale, nel senso che nelle sue coste in un futuro vi si potrebbe anche vivere. È un continente in cui c'è una vera e propria gara all'esplorazione scientifica, e forse proprio questa gara all'esplorazione scientifica ha disinnescato, come ci raccontava il dottor Turchetti dell'Università di Manchester, quella che poteva essere un'escalation della guerra fredda. Dottor Turchetti, lei prima citava quei 12 paesi che accampano diritti appunto sul continente, tra i quali ci sono Argentina e Cile, e questo è comprensibile perché c'è una contiguità geografica, ma ad esempio c'è un paese come la Gran Bretagna o come la Francia. Com'è possibile che a distanza di migliaia e di migliaia di chilometri un paese dica, beh, insomma, questo pezzo, questa fetta della torta ghiacciata antartica è mio? Ma diciamo, come detto in precedenza, già nel 1908 la Gran Bretagna fu la prima nazione che effettivamente fece delle rivendicazioni territoriali sull'Antartide. Nel corso del tempo ovviamente la Gran Bretagna ha ritenuto opportuno mantenere degli interessi strategici. Va sottolineato che ad esempio uno degli interessi strategici che riguarda l'Antartide è il mantenere delle posizioni, delle basi che comunque consentano di osservare il transito ad esempio di navi e tra l'altro anche sottomarini in zone importantissime come ad esempio la Terra del Fuoco. Sì. Quindi esistono questi interessi militari di fondo, a volte coincidono anche con degli interessi economici, e ovviamente questi stati, benché abbiano accettato il Trattato dell'Antartide proprio alla luce del fatto che un'alternativa al Trattato dell'Antartide sarebbe stata molto pericolosa, perché prevedeva nella Guerra Fredda appunto la presenza dell'Unione Sovietica come non solo un ospite in Antartide ma anche una nazione che poteva militarizzarla. Sì. Quindi da questo punto di vista il Trattato dell'Antartide è sopravvissuto per molti anni e tra l'altro si è anche rafforzato attraverso la costruzione del sistema del Trattato Antartico, che prevede tutta una serie di convenzioni, ad esempio sulla protezione della fauna e della flora dal 1962, sulla protezione delle risorse dal 1988, delle risorse marine nel 1980, e fino al protocollo sulla sicurezza ambientale che è stato firmato a Madrid nel 1991. Effettivamente abbiamo un sistema molto solido al momento, un regime molto solido che secondo me reggerà sicuramente alle tensioni che porteranno poi alla revisione del trattato nel 2048. Ecco, e qua si apre, diciamo, in qualche modo lo scenario futuro. Lei diceva è abbastanza fiducioso che questo trattato regga, però in apertura di questa puntata il professor Salvini da Roma 3 ci citava un dato su tutti, che è frutto di ricerche, diciamo, in prospettiva. Potenzialmente il continente antartico potrebbe fornire 50 miliardi di barili l'anno di petrolio, oltre a ingentissime riserve di carbone. Se consideriamo che il fabbisogno mondiale è di 10 miliardi l'anno, stiamo parlando del quintuplo del petrolio che al momento noi utilizziamo. Questa mi sembra una prima leva formidabile che potrebbe far vacillare il trattato che lei citava. Assolutamente, va però tuttavia sottolineato che prima di tutto l'estrazione di questo petrolio risulta estremamente difficile. Va sottolineato inoltre che ovviamente ci sono delle condizioni che non siamo in grado di prevedere in questo periodo e che ovviamente potrebbero fare la differenza. Ad esempio, se come conseguenza dei cambiamenti climatici ci fossero delle aree dell'Antartide che fossero liberate dal ghiaccio, chiaramente questo potrebbe rappresentare uno degli elementi che potrebbe spingere verso ulteriori pressioni. Mi consenta di sottolineare, certo, che nel corso degli anni il Trattato dell'Antartide ha già resistito a diverse sfide relative lanciate da tutta una serie di paesi che in un modo o nell'altro hanno cominciato a chiedersi come mai l'Antartide fosse governata in un regime così paradossale, se vogliamo, nel senso che il Trattato dell'Antartide non aveva inizialmente neanche il riconoscimento delle Nazioni Unite, e ci sono state sfide nel corso degli anni. Ad esempio nel 1983 la Malesia in particolare presentò all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite una richiesta, proprio di chiarimenti rispetto alla questione dell'Antartide, ovvero perché effettivamente l'Antartide fosse governata in maniera così elitaria e tutta una serie di paesi, anche paesi poveri come la Malesia appunto, non fossero autorizzati assolutamente a prendere parte a queste decisioni. È un po' così, dottor Turchetti, è un po' un club per pochi di grandi potenze coloniali? Assolutamente, è un club per pochi a cui si accede se quei pochi ti danno diritto di accedere. Quindi il fatto che oggi abbiamo 27 nazioni che possono prendere decisioni sull'Antartide è proprio il risultato di questo meccanismo di inclusione nel club, deciso appunto dai paesi del club. Questo in barba a qualsiasi standard giuridico internazionale riconosciuto dalle Nazioni Unite. Non solo, ma quello che è anche interessante è che alcune di queste nazioni effettivamente dall'interno stanno anche loro sfidando lo stesso trattato dell'Antartide. Si tenga in considerazione che sia la Gran Bretagna che l'Australia, in virtù della firma della Convenzione sul diritto del mare, che praticamente prevede che le nazioni che firmano questa convenzione abbiano diritto allo sfruttamento come zona economica esclusiva di 200 miglia nautiche dalla costa, sì, hanno praticamente cominciato a decidere per conto loro, nonostante fossero firmatarie del Trattato dell'Antartide, che avevano diritto a sfruttare le coste dell'Antartide. E quindi questo ha creato tutta una serie di frizioni a carattere internazionale che ancora oggi in qualche modo continuano. Certo. Ci sono poi le tensioni geopolitiche classiche, si immagini lo scenario tipico della guerra delle Falklands tra l'Argentina e la Gran Bretagna, sì, in cui c'è stata una tensione forte, una tensione che ovviamente ha avuto ripercussioni anche sul Trattato dell'Antartide, vista la vicinanza delle Falkland, certo, all'Antartide. E stessa. Peraltro si è rinnovata anche nei mesi scorsi quella vecchia tensione, ed è interessante notare che proprio in un altro teatro ancora una volta Gran Bretagna e Argentina vanno a confrontarsi. Siamo quasi in chiusura, dottor Turchetti, qual è tra gli attori che lei ci sta aiutando a comprendere, no? Sono posizionati su questo ghiacciato scacchiere, quali sono quelli più aggressivi, quelli che tendono, come dire, a alzare la testa un po' di più, a allargare i gomiti? Sicuramente quelli che hanno una tradizione coloniale, la Gran Bretagna in primo luogo e l'Australia. Detto questo, va considerato ovviamente che tutto può cambiare anche in corrispondenza del fatto che non c'è più la guerra fredda, che esistono nuovi equilibri nell'ordine mondiale e che alcuni degli attori che in Antartide poi hanno fino ad ora ha giocato un ruolo assolutamente minimale, penso alla Cina, che comunque è uno dei paesi che prende parte alle decisioni sul trattato, potrebbe un domani, alla luce appunto del fatto che sta diventando una nuova potenza mondiale, giocare un ruolo diverso. È ipotizzabile secondo lei che si apra maggiormente questo club dei 27, questo esclusivissimo club? Guardi, in tutta sincerità penso di no, perché se non sbaglio l'ultima accessione è stata alla fine degli anni 90, quindi a mio giudizio si sta andando verso, come dire, un po' la cristallizzazione di questo sistema di stati piuttosto che un suo ulteriore allargamento. Chiaramente il club in qualche modo riflette quelle che sono le tensioni internazionali e quindi gestisce queste tensioni internazionali attraverso l'accesso o l'esclusione, certo, all'interno del trattato, quindi è appunto impossibile dire se questo sistema cambierà di nuovo. E il ruolo dell'Italia in tutto ciò? Il ruolo dell'Italia è un ruolo di un paese che almeno fino al 1981, quando è diventata appunto un membro del trattato consultivo, è stato un ruolo marginale, ma da allora in poi è stato un ruolo sicuramente centrale nelle decisioni che hanno caratterizzato appunto la strutturazione del sistema del trattato dell'Antartide che descrivevo prima. In realtà quando si parla dell'Antartide bisognerebbe anche andare un po' oltre quelle che sono poi anche le dimensioni delle rivendicazioni territoriali, nel senso che effettivamente l'Antartide, anche per queste circostanze particolari della guerra fredda, è stata utilizzata soprattutto come un luogo d'esplorazione scientifica, e da questo punto di vista il ruolo dell'Italia è stato assolutamente di primo piano attraverso la creazione della base Concordia e poi attraverso tutta una serie di missioni scientifiche che sono state veramente molto importanti, insomma. Grazie allora al dottor Simone Turchetti, che insegna al Centro di Storia delle Scienze, Tecnologia e Medicina all'Università di Manchester. Buona serata, buon lavoro. Grazie. Allora, titoli di coda, non mi resta che ringraziare Filippo Oreggi che ha dato musica e ritmo a questa puntata, Laura Faggini e Benedetta Acri che mi hanno aiutato a confezionarla, voi per essere stati all'ascolto. L'appuntamento è per sabato prossimo ore 19:15 e ricordate la replica in versione extra large la domenica alle 22. Un saluto da Gianpaolo Musumeci.